giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Giornata contro la violenza sulle donne, decine di iniziative in regione, flash mob a Pordenone. Molesta due giovanissime, viene allontanato, cade a terra e si ferisce. È successo a Udine. Contro la violenza di genere, una panchina rossa anche davanti alla sede di Trieste della RAI. Furti, rapine, pestaggi e danni di migranti a Trieste. 5 gli arresti, si tratta di pakistani e afghani. Apre i battenti il nuovo Museo della Civiltà del Vino del Friuli Venezia Giulia, oggi l'inaugurazione a Butrio. Partita da Napoli con rotta verso l'Antartide, la rompighiaccio dell'OGS di Trieste, Laura Bassi. 12:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, iniziativa istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Decine le iniziative nelle quattro città capoluogo della regione e nei centri minori. Partiamo allora da Trieste. A Trieste le attiviste e gli attivisti legati al movimento Non Una di Meno hanno passato la notte nel consultorio familiare di San Giacomo, una delle due strutture che la SUGI intende chiudere in città. Una protesta che il movimento ha organizzato proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza che i consultori familiari hanno anche come presidi sul territorio nella prevenzione della violenza domestica e di genere. In mattinata hanno scritto sui fazzoletti fucsia 340 nomi delle donne uccise dal 2021 fino all'ultimo femminicidio del 2023, quello di Tita Talamelli, uccisa il 21 novembre, 3 giorni dopo Giulia Cecchettin. Fazzoletti che verranno sventolati questo pomeriggio in corteo dal consultorio fino a Piazza Ortis, dove verranno esposti. Intanto il camper della Polizia di Stato è presente nelle piazze principali della città per mandare un messaggio inequivocabile alle donne. Se pretende amore o sesso quando tu non vuoi, se ti offende, se ti umilia, se ti fa male, non è amore. Nella provincia di Trieste le forze dell'ordine hanno contato nel 2023 139 denunce per maltrattamenti e 44 violenze sessuali legate a relazioni affettive, in linea con l'anno precedente. Sono in diminuzione invece le denunce per atti persecutori o stalking. Il questore ha anche predisposto 27 ammonimenti, quasi tutti per violenza domestica che nella stragrande maggioranza dei casi avviene davanti ai minori. Contestualmente, per gestire con maggiore sensibilità i casi di violenza domestica e di genere, la Questura di Trieste nel 2023 ha formato gli agenti delle volanti, che sono i primi a intervenire nel caso di una chiamata di aiuto. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E all'ingresso della sede regionale della RAI a Trieste è stata allestita una panchina rossa che fa parte di un più ampio progetto partito qualche anno fa e che ora coinvolge praticamente tutte le sedi della RAI in Italia. È la conseguenza delle molestie a due giovani, il ferimento di un uomo avvenuto ieri sera a Udine. Il molestatore ubriaco si è ferito con la bottiglia che aveva con sé. Sui San Pietrini, che pavimentano la zona tra il Tribunale di Udine e la Chiesa di San Francesco, sono ancora evidenti le tracce ematiche e i cocci di bottiglia che hanno ferito l'uomo ieri sera intorno alla 22. La Polizia di Stato, grazie alle immagini riprese dalle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ha ricostruito l'accaduto. Uno straniero, alterato dall'alcol, avrebbe importunato due ragazze, una delle quali minorenne, che reagendo lo hanno spinto. L'uomo ha perso l'equilibrio, rovinando a terra e ferendosi in maniera seria con i cocci della bottiglia che aveva con sé. Accompagnato in ospedale, è stato ricoverato in codice rosso. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora a Pordenone, dove questa mattina c'è stata la manifestazione Uniti contro la violenza, il fronte compatto del no delle istituzioni. L'iniziativa è stata promossa dal comune, hanno preso parte alla iniziativa anche forze dell'ordine, associazioni e sindaci del Friuli occidentale. Una piazza che dice no alla violenza nei confronti delle donne, lo grida con la gioia e con il dolore dell'adolescenza, assieme alle istituzioni. Pordenone e gli studenti delle sue scuole ricordano Giulia, trovata morta a poche decine di chilometri da qui. Lo fa ballando in piazza con nastri, fazzoletti e segni rossi davanti a sindaci, assessori e forze dell'ordine, consapevoli tutti che la strada da fare è ancora tanta, ma che le nuove generazioni hanno già una notevole sensibilità sul tema. Io credo che stia cambiando, vedo una nuova sensibilità nei nuovi giovani e quello che è successo in questi giorni chiaramente ci ha spiazzato, ma nel lavoro di nostro tutti i giorni mi pare poter dire che una parità sta crescendo. Secondo me sì, c'è tanto da fare ancora, però le cose stanno cambiando, perché attraverso anche queste flash mob proposto dalla nostra scuola ho visto tanti ragazzi anche di altre scuole che sono scesi in piazza proprio per sensibilizzare questo discorso. Questo nonostante i testi di molte canzoni di artisti idolatrati dagli adolescenti inneggino alla violenza e all'oggettivizzazione della donna. Prendiamo soltanto quello che va virale, come si dice, no? Le hit del momento, che senza riflettere a fondo su quello che le parole dicono della canzone. Fondamentale agire sul concetto di relazione sana all'interno di una coppia. Il prefetto Domenico Manno. La maggior parte dei ragazzi, uno su due, considera normale la gelosia come se fosse un'espressione dell'amore, e non è questo il messaggio che dobbiamo dare. Non è la logica della sopraffazione, del controllo, ma dobbiamo comunque lavorare insieme. Tutte le agenzie educative devono creare un'alleanza per creare la cultura del rispetto, dell'educazione e della sensibilità. Pordenone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: minacce, insulti, uno sputo in pieno volto, oltre a un'aggressione fisica che per fortuna non ha avuto più gravi conseguenze, quanto ha subito giovedì sera Monfalcone, un autista del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia. A riferirlo l'Unione Sindacale di Base USB, che oltre a manifestare la solidarietà al collega, auspica che l'azienda provinciale trasporti APT di Gorizia provveda a sostenerne tutte le spese di assistenza legale e sanitaria. Aggressioni, prepotenze e insulti verso le lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico sono il sintomo di un più generale deterioramento della convivenza civile del territorio, scrive in una nota la sigla sindacale, che chiede da parte di istituzioni, aziende del trasporto pubblico, sindacati e utenti una riflessione e un'azione risolutiva nel fronteggiare questo fenomeno. Ora a Trieste, dove si sono concluse con degli arresti le indagini sulla banda di cittadini stranieri che terrorizzava i migranti, loro concittadini che gravitano nella zona di Piazza della Libertà. Hanno cominciato con furti e rapine ai danni di altri richiedenti asilo, ma poi hanno alzato il tiro imponendo il pizzo a un kebab baro. Il titolare dell'esercizio commerciale ha poi trovato il coraggio di denunciare l'estorsione. 2.000 euro al mese in cambio di una presunta protezione. Le indagini dirette dalla Procura di Trieste e realizzate dalla Polizia di Stato si sono chiuse dopo 4 mesi con l'arresto di 5 persone, 4 afghani e un pakistano, richiedenti asilo arrivati in Italia l'anno scorso. Il tutto nelle vie vicine a Piazza Libertà, dove stamattina si sono radunati amici dell'associazione Linea d'Ombra per un'iniziativa pensata per contrastare la manifestazione del movimento estrema destra Forza Nuova, poi spostata dalla questura altrove. Da quanto abbiamo preso, 2 dei 5 indagati alloggiavano al Silos, ma l'inchiesta non ha portato alla luce alcun taglieggiamento nei confronti di chi dorme nella fatiscente struttura vicina alla stazione. Una voce che girava da tempo, ma di cui non c'è stata conferma. Per compiere i reati il gruppo si avvaleva anche di armi come coltelli e bottiglie rotte. Uno di loro aveva anche aggredito il personale sanitario del pronto soccorso di Trieste ed è stato per questo accusato di resistenza pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico. Gli indagati sono finiti in manette stamattina. Un arresto è stato compiuto in Abruzzo, nel Teramano, dove si era trasferito da poco uno dei 5. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Aumenta il numero dei posti in nido messi a disposizione dal Comune di Udine nelle strutture convenzionate. Dal prossimo anno educativo passeranno da 114 a 150, un aumento di circa il 30%. A Udine sono disponibili 38 servizi per la prima infanzia, di questi 25 sono nidi privati, convenzionati o direttamente dipendenti dal Comune. In tutto sono disponibili 1023 posti su 1937 bambini della fascia tra 0 e 2 anni. Il servizio ha avuto un boom di richieste alla fine di quest'estate. Le domande non soddisfatte sono cresciute, passando dalle 16 del 2021 alle 129 del 2023. Ammontano a 3 milioni e 120 mila euro le nuove risorse con cui la Regione implementerà il bando internazionalizzazione e che serviranno per scorrere la graduatoria dei progetti presentati da grandi, medie e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia. Il bando arriverà a 8 milioni in tutto, saranno finanziati altri 53 progetti che si sommano ai 99 già sostenuti, pari al 46% delle richieste in graduatoria. La politica Gorizia, ieri la presentazione degli obiettivi del partito Noi Moderati, guidato dal senatore Maurizio Lupi. Renzo Tondo è il coordinatore per il Triveneto. Nasce in Friuli Venezia Giulia il nuovo partito Noi Moderati. Raccoglie il testimone di autonomia responsabile di Renzo Tondo per dare nuova linfa ad una formazione che alle ultime regionali non è arrivata al 2%, fallendo l'obiettivo di portare rappresentanti in consiglio regionale. Ora, per la quarta forza del centrodestra, l'intento è ben figurare alle europee e alle amministrative dell'anno prossimo, quando saranno chiamati al voto 113 comuni del territorio. La strategia, come spiegato in conferenza stampa a Gorizia, è quella di federare tutti i movimenti civici locali. Onorevole Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati. Le civiche hanno bisogno, e la politica nazionale ha bisogno di contatto con le liste civiche, ma le civiche hanno bisogno di una casa più grande, di un partito con la P maiuscola che possa ritornare a dialogare e a rappresentare la società civile viva. Dopo le elezioni del 2024, i due leader nazionali, Lupi e Toti, apriranno la fase congressuale. Quattro oggi responsabili territoriali, tra loro Ivo Moras per Pordenone, che arriva dalla Lega. Noi Moderati vuole essere anche una casa per chi non si riconosce più nelle altre forze politiche, riportando i moderati di centrodestra a votare con questa proposta. Mettere al centro i pilastri fondamentali che vanno dalla famiglia all'educazione, alla cultura, alla formazione, alle piccole e medie imprese. Gorizia, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato prorogato di 2 anni l'accordo del 2021 tra Regione e Ministero della Cultura per la realizzazione di interventi di valorizzazione e conservazione ad Aquileia. Regione e Ministero garantiranno in particolare il completo recupero dell'ex essiccatoio nord, ha annunciato il vice governatore con delega alla cultura Mario Anzil. I lavori all'ex essiccatoio, inizialmente previsti per 3 milioni e mezzo, sono stati rivisti di 4 milioni. L'accordo inoltre prevede lo stralcio dell'intervento sul porto di Aquileia a seguito della devoluzione dei fondi ad altro soggetto per 3 milioni di euro e lo stralcio dell'intervento al cimitero degli eroi che sarà eseguito direttamente dalla soprintendenza a fronte di 211 mila euro. E oggi ricorre l'anniversario della fondazione dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia. La giornata internazionale dei medici per l'ambiente di oggi è stata dedicata ai problemi di salute pubblica dell'antimicrobico resistenza, la cosiddetta AMR, che a livello europeo vede l'Italia condividere la maglia nera degli effetti sanitari con Grecia e Romania e causa quasi 5 milioni di morti ogni anno nel mondo. Il fenomeno, amplificato dagli effetti dei cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dell'inquinamento, è ora considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una delle prime 10 minacce globali per la salute pubblica. Ne abbiamo parlato con Mario Canciani, presidente della sezione regionale della ISDE. Purtroppo l'Italia, insieme a Grecia e Romania, è la maglia nera al di fuori dell'Unione Europea come consumo di antibiotici, perché la gente, se vede che entro 3 giorni non sta bene, chiede al medico, proprio la vuole l'antibiotico, quindi il medico dice ma io sono costretto a darglielo certe volte perché c'è questa pressione da parte dei pazienti, ricordando però che il 90% delle infezioni sono virali, per cui l'antibiotico non fa niente al virus, anzi ammazza i germi buoni che combattono per gli alimenti con quelli cattivi. Noi come medici dell'ambiente abbiamo preparato dei poster, ma anche il Ministero della Salute, se si va sul sito, ci sono dei bellissimi poster con delle domande vero e falso che dovrebbero essere messe in ogni ambulatorio dei medici. Il problema che nasce dall'antibiotico resistenza, quindi qual è? Non solo di prendere medicine che non fanno effetto, ma poi di avere anche un contraccolpo dal punto di vista della salute? Esatto, perché è un problema di popolazione, cioè se io non prendo antibiotici ma il mio vicino di lavoro ne prende, se io prendo lo stesso germe è come se io avessi fatto gli stessi antibiotici del mio vicino. Per cui dobbiamo lavorare tutti assieme, medici e pazienti, per diminuire questo consumo. Ha aperto i battenti il nuovo Museo della Civiltà del Vino del Friuli Venezia Giulia questa mattina all'inaugurazione in Villa di Topo Florio a Butrio. Più di 3.500 pezzi, stampe, documenti e strumenti per raccontare la grande storia del vino. È il nuovo allestimento del Museo della Civiltà del Vino del Friuli Venezia Giulia, che si trova nelle sale di Villa di Topo Florio a Butrio, appena inaugurato, e affianca il Museo Storico, che esiste dal 1998 e si trova nel Palazzo Vicino. Una nuova esposizione che punta a raccontare, in chiave moderna, la storia della viticoltura, con un'esposizione degli strumenti adoperati per la produzione del vino e con immagini, etichette e fotografie di diverse epoche che illustrano progressi e svolte di un processo che rappresenta una vera e propria cultura. Come spiega il professor Mauro Pascolini, presidente della Commissione per la gestione del museo, il museo valorizza la collezione di Geremia Nonini, di cui offre una selezione di pezzi scelti per qualità e importanza. È cambiato anche il nome, con l'aggiunta di Del Friuli Venezia Giulia, si sottolinea la portata regionale del nuovo allestimento, che punta a essere sempre più rappresentativo. Per Stefano Cosma, uno dei curatori, il museo racconta dalla pianta al bicchiere il passato e il presente, ma anche il futuro del vino, con ad esempio un approfondimento sulle nuove varietà resistenti alle malattie. Butrio, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La rompighiaccio Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS di Trieste è partita oggi da Napoli per la nuova campagna scientifica del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. A Napoli è stato realizzato un nuovo laboratorio sul ponte di Coperta, a struttura scatolare in acciaio per contenere la principale strumentazione di campionamento usata in oceanografia, che può raggiungere i 6.000 metri di profondità. La nave arriverà in Nuova Zelanda a inizio gennaio per poi iniziare il suo viaggio verso l'Antartide con a bordo 38 fra ricercatori e tecnologi italiani e un equipaggio di 23 membri. Per la prima volta la missione sarà condivisa con il progetto antartico neozelandese. Alle 12.47 uno sguardo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, da sereno a poco nuvoloso sui monti, le temperature registrate alle 11. A Trieste 9,5 gradi, a Pordenone 10,5 gradi, a Gorizia 8,5 gradi, a Udine 8, a Tolmezzo 6 gradi, a Tarvisio 2, a Forni di Sopra 1 grado, sul Piancavallo meno 0,5 gradi, a Sappada meno 2,5 gradi, sul Monte Zoncolan meno 6,5 gradi, sul Lussari meno 8,5 gradi, sulla costa Lignano 10 gradi, grado 9,5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio: cielo in prevalenza sereno, con vento forte da nord, nord-ovest sui monti, specie ad alta quota. Sulle altre zone della regione soffierà vento in genere moderato, temporaneamente anche sostenuto. Ad alta quota sarà piuttosto freddo. Sulle creste, al confine con l'Austria, sarà possibile qualche debole nevicata portata dal vento in quota. Per domani cielo poco nuvoloso o variabile, farà più freddo dei giorni precedenti, con estese gelate notturne sulla zona montana e probabilmente anche in pianura. Sui monti ad alta quota sarà probabile vento da nord-ovest, anche sostenuto al mattino, poi in calo. La canzone che state ascoltando in sottofondo è parte del repertorio della bassista Manu Gallo, cantante della Costa d'Avorio e virtuosa del basso elettrico, già membro della storica band Zap Mama, che oggi sarà protagonista del Festival Il Volo del Jazz di Sacile. Il concerto porterà sul palco un artista che ha fatto della contaminazione fra culture la sua cifra stilistica. Tradizioni ancestrali, funk e soul sono tenuti assieme da un groove che trasforma ogni concerto in un evento unico. Nominata nel 2009 miglior musicista della Costa d'Avorio, Gallo nel 2013 è stata inserita tra i primi 10 bassisti africani che influenzano la musica nel mondo. Il suo ultimo album, Afro Jazz Fusion, celebra tutti gli artisti africani che l'hanno ispirata. Appuntamento al Teatro Zancanaro alle 21. Ancora alcuni appuntamenti con gli spettacoli per oggi. Concerto gratuito all'Università delle Libertà di Udine per la direzione artistica di Rime Mute. Alle 18 il pianista Matteo Groppello propone musiche di Bach, Busoni, Debussy, Rachmaninoff, Brahms, Liszt. A Gorizia, nell'auditorium di Via Roma, la sezione di Gorizia del Club Alpino Italiano, nell'ambito delle celebrazioni per i 140 anni dalla sua fondazione, proporrà il concerto Cantando insieme alla montagna. Scusate. Protagonista sarà il coro Monte Sabotino della sezione CAI di Gorizia, che compie 60 anni insieme al coro La Voce della Valle della sezione CAI di Cividale. Appuntamento alle 20:30. Set di percussioni per il primo appuntamento della nuova stagione di Musica Insolita del Salotto Musicale del Friuli Venezia Giulia. Alle 21 nella Sala Grande di Palazzo Picco a Fagagna, le composizioni proposte da Eswan includono sia pietre miliari del secondo Novecento sia alcuni tra i più interessanti autori contemporanei viventi per solo e duo di percussioni della slovena Mia Cristan e del Trieste Daniele Ciacchi. Serata di folklore in programma con il gruppo sloveno Franz Marol di Lubiana, appuntamento al Kulturnidom di Gorizia alle 20:15. Secondo appuntamento con la rassegna Blessano a teatro, organizzata dalla Pro Blessano alle 20:45, Furcul Melon della compagnia teatrale Sotto la Nape. Segnaliamo ora altri appuntamenti nell'ambito della giornata contro la violenza sulle donne a Trieste, nel Palazzo delle Poste. È prevista l'inaugurazione della mostra Basta la violenza contro le donne, raccolta di fotografie scattate dall'artista triestina Stella Levia, a cui si aggiunge l'ultima emissione con un annullo speciale e un percorso tematico. A Cloud Femini sul palco i testi della poetessa friulana Novella Cantarutti sulle donne che con coraggio e sudore hanno abitato gli angoli più ripidi del Friuli occidentale alle 21 nella sala convegni di Cloud. Il dialogo sul tema della violenza di genere a partire dalla lettura del romanzo di Italo Svevo dal titolo Cent'anni di Zeno. Sarebbero oggi giuridicamente leciti i comportamenti del personaggio Zeno Cosini? È in programma a Trieste, a Palazzo Gopcevic, alle 18. Io rispetto, progetto del comune di Gradisca di Sonzo, propone la conferenza con Fabiana Martini e Renata Codiglia nella sala del Consiglio alle 18. A seguire il concerto Da ogni nota nasce arte al nuovo teatro comunale alle 21. A Udine l'attrice Bruna Braidotti sarà in scena con Luisa al Teatro San Giorgio alle 19. Il concerto Respect è invece previsto al Teatro Palamostra alle 21. Siamo così percorsi di riflessione sul femminile. Lo spettacolo a cura del Free Voices Show Choir che sarà in scena a Monfalcone al Teatro Comunale alle 20:30. Il gruppo Mille Passere Manzacco ha organizzato una camminata libera con partenza dal Monumento Sociale Panchina Rossa in piazza Paolo Diacono alle 14. È poi prevista una serata di riflessione con la partecipazione della compagnia teatrale della Rosa, Il coraggio di uscire dal silenzio, l'auditorium comunale De Cesare alle 20:30. A Trieste il gruppo musicale Al Metrigale, le ballerine del gruppo di danza creativa Metodo Fuchs, proposti da Wall of Dolls al Circolo Hauser di Via Pasteur a Melara alle 18:30. Presentazione del libro di Chiara Vergani, Resilienza compagna di vita, a Pordenone, all'ex convento di San Francesco, alle 16, organizza FIDAPA, la Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari. L'amministrazione comunale di Butrio invita allo spettacolo teatrale Dissonorata, un delitto d'onore in Calabria, Villa di Toppo Florio, in sala polifunzionale, alle 21. Passiamo alle nostre rubriche. Domani sul terzo canale televisivo Rai andrà in onda alle 11:05 la rubrica Est Ovest, curata dalla nostra redazione e dedicata all'approfondimento di quanto avviene nei paesi balcanici e dell'ex Cortina di Ferro. Ecco il sommario degli appuntamenti. Il taglio illegale delle foreste in Romania, un crimine indotto anche dalle grandi multinazionali del legno. Il voto dei giovani e delle donne ha cambiato il volto politico della Polonia, favorendo la parte europeista. La scrittrice Olia Savicevic-Ivancevic racconta la lotta delle letterate e delle artiste contro il patriarcato in Croazia. Il turismo in Montenegro, il capitale russo, ha prodotto una cementificazione della costa a cui si oppongono gruppi di ambientalisti. La storia di Vito Alfieri Fontana, da fabbricante di mine ed armi ad attivista per la proibizione dell'uso delle mine antiuomo nel mondo. Tutto questo ad Est-Ovest, domenica alle 11:05 minuti su Rai 3. E sempre domani su queste frequenze, il nuovo appuntamento domenicale con Vita nei Campi, trasmissione radiofonica dedicata ad agricoltura, ambiente ed enogastronomia. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura gli effetti dei cambiamenti climatici sui prezzi dell'ortofrutta. A seguire la storia di Angelo Floramo, che racconta delle vecchie cantine nelle case dei contadini friulani. Una scheda sul sorbo degli uccellatori, pianta dalle bacche stupende molto appetite dagli uccelli. E ancora il club degli svitati, che propone tappi a vite anche per i vini più prestigiosi. Nella rubrica della conservazione e trasformazione alimentare, due proposte per regali di Natale, come districarsi tra le mille proposte degli ibridatori floricoli, il caso dei ciclamini. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia, la parte tecnica Giuliano Pecorari e Carlo Morello. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.